certo. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Non so se venire subito dopo uno spot pubblicitario è un onore per me oppure no, mi sento una specie di, anch'io di un programma pubblicitario qualcosa. Comunque, Pastore, veramente sei bravissimo perché hanno già chiamato in regia la Eminflex e vuole che tu faccia le televendite dei materassi. Allora, domenica scorsa abbiamo avuto una bellissima domenica, è vero. Abbiamo avuto delle predicazioni fantastiche, abbiamo avuto anche Gianluca che ha presentato una nuova serie che si chiama I Salmi. E anch'io sono stato molto ispirato da questo, Benedetto, in qualche modo volevo anche replicare un po' anch'io, inserirmi in una serie di studi, di prediche. Ho iniziato questa, inizierò oggi anch'io una nuova serie che si chiama Lamentazioni. Non c'è niente da ridere, un libro come un altro. Perché non vi piace? Vabbè, avete capito, è uno scherzo? Va bene, ok, bravi. Va bene, era per vedere se eravate svegli oppure no. Comunque sì, prima o poi, guardate che Gianluca lo fa sul serio, eh. No scherzo, dopo i Salmi inizierà Lamentazioni di Geremia. Allora, voglio andare al dunque, voglio parlarvi di una cosa, è una domenica importante per me, per molte persone che sono qui, soprattutto per questi cinque fantastici che stimo e ammiro, sono i nostri eroi. E vi spiego anche perché. Però prima di parlarvi di questo, volevo farvi una piccola confessione. Allora, io ho un piccolo problema, in realtà diciamo più di un problema. Però in questo caso diciamo vorrei parlarvi di questo perché è una specie di disturbo, malattia. Questo disturbo in realtà io ce l'ho fin da piccolo. Poi adesso ho capito quando mi sono sposato perché mia moglie, quella bellissima donna che era qui fino a poco tempo fa, è anche psicologa e quindi mi ha detto come si chiama questa malattia. E questa malattia si chiama disturbo ossessivo compulsivo da ordine e simmetria. Non c'è niente da ridere, una malattia, davvero, dovreste essere solidali con me e pregare perché io guarisca, però questa malattia si chiama così, è una cosa un po' strana, in pratica vi leggo la non so come si chiama, comunque la definizione esatta di questa malattia che dice così: il disturbo si manifesta come intolleranza al disordine e alla simmetria. A libri, foglie, penne, anche quelle del pastore, asciugamani, abiti, CD, piatti, devono risultare perfettamente allineati, simmetrici, ordinati secondo una precisa logica, che magari sono dimensioni, colori, eccetera. Quando il paziente, ho sentito un è giusto, mi piace, quando il paziente percepisce asimmetria e disordine, si impegna, ascoltate bene, si impegna anche per molte ore a riordinare questi oggetti fino a sentirli a posto. Io sono così, veramente. Da ragazzino, quando ero a tavolo, mangiavo anche delle olive, io prendevo tutti i noccioli e ne mangiavo una quantità precisa e allineavo i noccioli uno a uno. C'è anche la diapositiva, la possiamo vedere. Se bevevo un bicchiere d'acqua, io bevo metà bicchiere d'acqua dopo il primo e la seconda metà dopo il secondo. Esattamente. E se io facevo, giocavo con le costruzioni, con i Lego, in questa immagine, scusatemi, sono i Duplo, avrei dovuto prendere un'immagine con i Lego, ma non fa niente, sono i Duplo, io li costruivo in maniera simmetrica e per colore. Il colore che vedi a sinistra lo troverai anche a destra. Tutto questo ovviamente ha sviluppato in me una ossessione per la precisione. Voi sapete bene che io non sopporto i ritardatari, proprio una cosa che non riesco a vivere con tranquillità. Pensate che, e non farò battute su mia moglie, ve lo prometto. Però io ringrazio Dio perché mi ha dato anche un lavoro che mi permette in qualche modo di come dire, sfogare questa situazione, no? Di renderla un po' più piacevole per me, meno dolorosa, perché in effetti fa veramente soffrire quando vedi delle cose disallineate. Il mio lavoro è il grafico e quindi io passo gran parte del mio tempo ad allineare oggetti. Io, quando voi vedete una pagina di una rivista, tipo questa che vedete qui, voi vedete una pagina di una rivista, ma io vedo linee, io vedo allineamenti, io vedo spaziature, vedo simmetrie. E quando voi vedete un logo, io vedo righe, linee, cerchi e allineamenti. Questo per me è il modo in cui io allievo un po' questa situazione, perché in effetti fa male. Non è una cosa leggera. È meno male che io faccio questo lavoro, però in realtà, cioè, questo non è che risolve tutti i miei problemi. Però è una cosa... Ora, io lo so che sto facendo questa confessione e molti di voi, secondo me, si stanno ritrovando in questa cosa. Dite la verità. Ora, non vi chiedo di alzare la mano, però so che voi ci siete, siete in tanti e siete con me. Lo so, sento che ridacchiate, però io non sono solo da solo, perché voi avete anche voi nel più o meno queste cose qua. Lo so che bene o male tutti quanti abbiamo le nostre manie, tempi, precisioni, però io non mi sento da solo, perché in realtà una persona importante che è Dio, anche lui è proprio ossessivo. E ve lo dimostro, perché... Dio ha un senso delle cose e dell'ordine. Dio ama l'ordine. Anzi, Dio è l'ordine. Sul serio. Quando lui ha creato il mondo, ha dovuto iniziare la creazione, ha avuto 6 giorni per fare delle cose meravigliose e stupende. Ha creato i cieli, i mari, le stelle, cioè tutti in un ordine preciso. In realtà ha anche creato prima l'uomo e poi la donna. Ora lo so che non vi piace a molti, però Dio ha fatto così, quindi se Dio ha detto che doveva creare prima l'uomo, non vi offendete, Signore, però ha fatto così, punto. Però lui ha un suo ordine, è un suo ordine preciso. E questo non è che solo me lo sono inventato, però proprio la Bibbia ce ne parla. È in continuo, Dio ha un ordine prestabilito di che cosa è l'universo e di come deve essere ordinato e tenuto in armonia. È bellissima questa parola, armonia. Tutte le cose funzionano. Tuttavia, come dire, c'è un verso che mi piace, ed è questo, il 1 Corinzi 14, 33, che dice: Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E in un'altra versione, che è la parola della gioia, la BDG, dice: Dio infatti non vuole né disordine né confusione, perché Dio ama l'armonia e la pace. Dio non è solo ossessivo con l'ordine, però anche una soluzione, perché per lui le cose devono funzionare, vuole che funzionino. Quando ricordate sempre la questione della creazione del paradiso terrestre, era tutto fantastico, tutto funzionava per bene, non c'erano problemi con le bollette del gas o dell'energia, tutto era preciso, non c'erano cose che sembravano uscire fuori da un sistema. E questo, solo l'idea, mi mette una pace pazzesca. Sapete, per Dio, quando parla di ordine, non lo mette in un'idea contraria a qualcos'altro. Mi spiego meglio. Quando qui parliamo di ordine, Dio pensa non a un concetto astratto, ma pensa a un'azione. Cioè Dio spende tutte le proprie energie, tutto quello che lui può, tutto quello che lui ha la possibilità di fare, e lui è l'infinito, è onnipotente, spende ogni cosa perché tutte le cose possono andare in un ordine preciso. E lo ha fatto e lo continuerà a fare, ti assicuro che lo farà ancora e ancora, perché lui ha un'armonia straordinaria delle cose. Ha tutto davanti a sé e lo vede perfetto, perché lui è perfetto. E questo però, insomma, come dire, in qualche modo non è uguale a quello che noi viviamo normalmente. E allora Dio ci invita a ristabilire qualcosa che sia pace e ordine, come nel verso che abbiamo appena letto, no? Se lo rimettiamo questo, non so se c'è nella slide, c'è scritto proprio, Dio infatti non vuole né, è un Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quando io dico che Dio si opera in un'azione precisa perché il disordine diventi ordine, lui al disordine contrappone la pace. Normalmente, se dovessi aver scritto io questa frase, avrei detto: Dio non è un Dio di confusione, ma è un Dio di ordine, ok? Perché io alla confusione contrappongo l'ordine. Invece, Dio alla confusione contrappone la pace. Ho voluto vedere meglio questa cosa. Io non ho studiato il greco, non lo conosco, però mi piace vedere, ci sono molti siti dove tu puoi vedere anche l'etimologia delle parole, e anche scoprire nel greco che cosa significava questo termine, queste parole che l'Apostolo Paolo ha usato in questo passo della Bibbia. E mi piace moltissimo perché c'è scritto che confusione deriva da una parola che in greco si dice akatastasia. Vi ricordate questa cosa, accatastare? Vi ricorda un po' qualcosa? Ha un suono molto bello ed è pazzesco il significato di questa parola. Perché accatastasia vuol dire che stai contando su qualcosa che non ha la forza di reggersi, che non si sa mantenere in piedi, che non può essere sostenuta a lungo perché è debole, è fragile. Questa è la confusione, questa è l'accatastasia. È in contrapposizione alla confusione c'è pace. Quando c'è pace, quella parola in origine si chiama Irini, che forse è molto più familiare il suono ebraico che dice Shalom. Shalom è abbondanza, tutto è a posto, è tutto sufficiente, tutto è armonico, tutto funziona. Vedete come sono bellissime queste parole usate in questo passaggio della Bibbia? E quando io penso a quello che Dio ha voluto fare per ristabilire un ordine, lui ha voluto che questo si ristabilisse con la pace. Qual è la tua pace oggi? E una buona notizia, oggi tu potrai ricevere pace. Questa è una cosa bellissima perché Dio ha in mente un concetto molto preciso riguardo alla pace. E sapete, non ha a che fare con qualcosa di irrealistico, è realmente qualcosa che può concretizzarsi. E io so, insieme a voi, che probabilmente quando noi parliamo di ordine, che tutto funzioni, ancora di più, e ve lo dico, io ho questo come problema di vedere tutte le cose funzionare, per me diventa una sofferenza quando non funzionano. Tutto è più amplificato, ve lo assicuro, però per Dio lui vuole che la nostra vita, la mia vita, funzioni in un'armonia precisa e ordine. Come si fa? Come si fa? E realisticamente, io in realtà già non vado d'accordo con me stesso. Vorrei tanto avere pace con me stesso per tante aree della mia vita. E quando mi guardo intorno non vedo ordine nelle cose, anzi vedo più confusione nelle mie relazioni. Non so come sono le tue, però ci sono tante persone che probabilmente ti hanno ferito, ti hanno deluso e sai, continuano a farlo. E dov'è questo ordine? Dov'è questa pace? E quando penso alle circostanze della mia vita o penso alle tue in questo momento, davvero tutto questo ha un senso? Davvero ha un ordine? Davvero ti sembra tutto che funzioni? In realtà no, perché c'è sofferenza. Abbiamo sentito solo pochi minuti fa che uno dei nostri fratelli sta soffrendo perché sta vivendo un lutto. C'è la morte, sono le malattie. Ci sono problemi di vario genere che affliggono ogni giorno la nostra giornata. Se io provo ad alzarmi qualche volta la mattina ad avere l'idea, vorrei che succedesse tutto delle cose in una maniera precisa e vorrei che tutte le cose andassero in una determinata maniera, alla fine della giornata che cosa è successo? Sì e no, neanche la metà delle cose sono andate come dovevano andare. È vero? Siete d'accordo con me? È così. Però oggi tu puoi realizzare pace. Questa pace è Dio ad offrirla. Questa pace è quella che Dio ha in mente da un sacco di tempo per te. Dall'inizio del tempo, da quando le cose sono andate storte. Sapete, tutto quello che noi viviamo, anche la creazione stessa in un disordine totale, tutto quello che sembra non avere un ordine e non funzionare, è perché tutto questo si è sfasciato. In origine non era così. Dio l'aveva creato perfetto. E anche la tua vita è perfetta in Lui. E vuole renderla perfetta in Lui. Che funzioni. A causa dell'umanità che ha sbagliato, è entrato il peccato nel mondo. Questo ha sfasciato le cose. Questo ha distrutto gli equilibri. Quando Dio ha visto tutto questo disordine, ha detto, io metterò tutte le mie energie, tutti i miei sforzi, tutto quello che io posso fare perché questo ordine si ristabilisca. E sapete che cosa ha fatto? Ha speso tutto se stesso, tutto quello che poteva fare, tutto quello che poteva avere per riordinare le cose. E l'ha fatto con Gesù. L'ha fatto con Gesù, con una croce. Quando tu vedi questa croce, come abbiamo ascoltato già prima, tutto questo ha un altro senso, perché non è solo Gesù che è venuto ed è morto, però è anche risorto. Perché quella croce è il momento in cui Dio vuole incontrarsi con te. Tutto quello che tu puoi pensare che non funzioni nella tua vita, quando tu incontri Cristo, la tua vita inizia ad avere un senso diverso. Perché proprio queste due linee, perfettamente allineate e perpendicolari, sono il momento in cui Dio ristabilisce un ordine. E lo ristabilisce per l'intero universo, e lo ristabilisce per te, per me. Quella croce è quando vediamo queste due linee unirsi, e nel centro di quell'unione, di quel punto in cui le cose si incontrano, e se può venire qualcuno per favore già qui per la lode, quando le cose iniziano ad incontrarsi, queste due linee iniziano ad unirsi, questo punto di incontro è il tuo. Tu che ti rincontri con Dio. Non è pazzesco? Dio oggi vuole offrirti la sua pace. Dio oggi vuole fare pace con te. Lo so che è difficile a volte pensare, ma come posso ristabilire l'ordine qui nelle mie cose, nella mia vita? Non mi piace quello che vedo intorno a me. Non mi piacciono delle cose di me stesso, non mi piacciono le cose che stanno intorno a me, le persone, ci sono situazioni nella mia famiglia, ci sono situazioni nelle circostanze che vivo e dico, ok, Dio dice, io ti offro la mia pace. Io voglio spendere, ho speso tutto quello che avevo per te. Ho detto, cos'ho che può riparare questo? Gesù. Gesù che si sacrifica al tuo posto, Gesù che paga al tuo posto. E in quell'incontro di quelle due linee perfettamente allineate ci sei tu. Vuoi fare pace con Dio oggi? Dio è lì che ti tende la mano. E oggi ci sono 5 persone che hanno afferrato quella mano e lo vogliono dire bello, forte e chiaro. Sì, io ho fatto pace con Dio. Che bello. Quando tu accetti, rientri nella pace e nell'ordine di Dio, allora forse probabilmente tutte le cose intorno a te iniziano ad avere un altro senso. tutte le cose intorno a te iniziano a essere considerate diversamente, perché tu inizi a cambiare. Tu non puoi rimettere ordine da solo alla tua vita. Tu non puoi tenere in piedi quello che ha confusione, ha catastasia, non si regge, non si regge, non ce la fai. Invece Dio ti offre pace, Dio ti offre armonia, Dio ti offre equilibrio, Dio ti offre le cose che possono funzionare d'ora in poi. Ci credi? È bellissimo che Dio ha speso tutto per te e vuole farlo. Non si stanca, non si stancherà mai fin quando tutto questo avrà il senso più completo, quando tutto finirà. Ma oggi tu puoi iniziare a vivere questo, tu puoi iniziare a vivere questa cosa che nessun altro ti può offrire, ma solo che Dio ti può dare. Voglio concludere lasciandovi un ultimo esempio che mi ha fatto gioia saperlo. Sapete, ci sono delle cose, tutte ne abbiamo, nella nostra vita che hanno segnato la nostra esistenza, è vero? Esperienze negative, quelle che hanno un suono strano, che sono là e non sai dove metterle. Veramente sembra che sono in un equilibrio di confusione e tu non sai dove mettere queste cose brutte che ti sono successe. E tutte ne abbiamo. E la vita sembra così disordinata. Ma Dio vuole mettere a posto anche queste, oggi, per te. Non so perché voglio insistere su questo, però forse il Signore vuole parlare esattamente su quest'area della tua vita. Ci sono cose che non stanno funzionando e che non hai dove mettere, dove posizionarle. Beh, Dio vuole dare la giusta collocazione a queste. Se ti intendi un po' di musica e ti piace il blues, c'è una nota nel blues che è il mi bemolle. E adesso chiedo a Leo di fermarsi di suonare. Se mi puoi suonare il mi bemolle, per favore, lo facciamo sentire bene. La nota. Questo mi bemolle si chiama blue note, perché è una nota stonata, un po' dissonante, un po' triste, no? Giusto? Sentiamola. Mi bemolle. Dice, questa nota è malinconica, infatti in inglese quando dici blue è perché è malinconica, è triste, è qualcosa che magari suona nella tua vita in continuazione da troppo tempo e tu non sai dove metterla. Però quando incontri Dio, quando tu entri in un ordine che Dio ha stabilito, quando tu entri nella sua pace, quella nota entra in un'armonia, di un accordo, insieme a quello che Dio fa nell'opera della tua vita, e quel mi bemolle triste e solo diventa un accordo di mi bemolle e suona bene. Che bello! Tutto quello che non ha funzionato finora nella tua vita può avere il giusto posto oggi, e Dio vuole metterlo in pace, Dio vuole metterlo in ordine. Ci alziamo in piedi. Vorrei pregare con voi, quindi chiudiamo i nostri occhi un attimo. E dire, Signore, grazie perché in tutto quello che non va e non funziona nella mia vita, tu ci sei. In tutto quello che è stato distrutto e che ha segnato la mia vita e la vita di tutte le persone che sono qui, tu ci sei. In tutto quello che ho costruito, che abbiamo costruito e che non si mantiene in piedi, tu sei la mia pace. È quello che il peccato ha distrutto, il diavolo ha distrutto. Oggi può prendere un nuovo senso e una nuova armonia e un nuovo ordine che io non posso costruire da solo, però Gesù tu puoi, Gesù tu puoi, e io ti chiedo che oggi tu puoi arrivare lì dove le mie parole non arrivano, dove tutto quello che posso dire non può convincere se non tu puoi farlo. Arriva nei cuori delle persone, arriva alla testa delle persone che sono qua. Dai loro speranza e dire: sì, io sono la tua pace. Sì, io sono oggi la tua pace. Sì, oggi voglio mettere in ordine le cose per la tua vita. Gesù l'ha fatto per te, l'ha fatto per me, per quella croce.